Le donne non conoscono l'imbarazzo di un uomo che piange di fronte a un altro uomo. Sì, magari hanno visto un uomo piangere per loro, o per una perdita, o per una vittoria della propria squadra, ma non sanno cosa significhi percepire sulla propria pelle la libertà che un uomo si concede di piangere di fronte a un altro uomo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, quasi 7 minuti. Oggi è martedì 14 giugno 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Quando ero piccolo, vedere la gente che piangeva mi faceva paura. Cioè, avevo la sensazione che una persona tanto triste da mettersi a piangere davanti a qualcuno fosse capace di fare qualsiasi cosa. Era una paura stupida, ovviamente, era inconscia, come tutte le paure, però era più forte di me. Io non volevo che le persone piangessero. Non volevo che nulla fosse fuori controllo. Tutto doveva essere a posto, tranquillo, gestibile. Mi ricordo bene la prima volta che mi sono messo a piangere nella mia vita. E mi ricordo bene anche l'ultima. Per prima intendo la prima che mi ricordi realmente, e non che sia uno di quei pianti disperati dei bambini quando non sanno perché ma piangono e basta. Avevo 6 anni e mi era volato via un palloncino. Me l'aveva comprato mia mamma ad una bancarella in riva al mare. E l'aveva fatto dopo che io gliel'avevo chiesto in 1000 modi diversi, come se quel palloncino fosse diventato l'unico scopo della mia vita, come se in quel palloncino ci fosse tutta la mia vita. Era uno di quelli fatti a testa di orsacchiotto, con un po' di argento ai bordi. Non ho nemmeno fatto in tempo a godermelo. Mia mamma me lo ha dato dopo averlo pagato, io me lo sono passato dalla mano sinistra alla mano destra e lui è volato via. Fu un pianto talmente totale che mia madre non ebbe nemmeno la forza di sgridarmi per essermelo fatto sfuggire. L'ultima volta invece è successa qualche settimana fa. Io non so se voi vi ricordate la vostra prima e la vostra ultima volta in cui avete pianto. Io me la ricordavo abbastanza bene, non ci ho dovuto pensare molto, perché ci avevo già pensato. Ci avevo già pensato quando ho conosciuto una persona che non poteva più piangere. Era un uomo di 50 anni che aveva avuto un incidente non particolarmente grave, che però gli aveva danneggiato le ghiandole lacrimali. Lui doveva girare tutto il giorno con un collirio sempre in tasca per umettarsi gli occhi ogni 10 minuti. Ma soprattutto lui non poteva più piangere. Ecco, fu lui a chiedermi se mi ricordavo la prima e l'ultima volta che avevo pianto, visto che lui se la ricordava molto bene. Ecco, la puntata di oggi è dedicata a quella. È dedicato al ricordo delle vostre prime lacrime e delle vostre ultime lacrime. Ecco, io oggi sono qui. 800240024 0024 oppure 349-238-6666. Il primo per chiamare in diretta e raccontarmele le vostre prime e le vostre ultime lacrime. Il secondo invece è semplicemente per mandare un SMS. Io vorrei veramente leggervi immediatamente i messaggi che sono arrivati al profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, perché dicono qualcosa di particolare. Manuela: il mio primo pianto è per un'anestesia, 5 anni. L'ultima volta è stato ieri. Monica: l'ultima volta ieri, la prima da bambina, ho l'immagine in mente ma non ricordo il motivo. Lidia: l'ultima ieri, ascoltando You Have Been Loved di George Michael, che non ho presente bene cosa sia, è una roba che noi non mandiamo. Perché non la mandiamo a Bonigior? Mandiamo George Michael, tipo Faith, quella in cui lui suonava la chitarra, che è un po', vabbè, come non detto. Sì, esatto, quando diventiamo un pochettino più classic. Diceva Lidia: l'ultima ieri, ascoltando George Michael, la prima volta in vacanza con mio papà, da sola, perché mia madre rimase con la sorellina appena nata. Barbara: la prima volta, quando mi hanno detto che il lupo aveva portato via il mio ciuccio. Questa non è male. L'ultimo pianto di commozione ieri, quando ho saputo del quorum. Cinzia: la prima da piccola, quando ho scoperto che i genitori non sono immortali. L'ultima volta non c'è mai, ci si commuove sempre per sentimentalismo. Ieri, ad esempio, quando ho scoperto che il 23 giugno finisce il programma. Allora, a parte che il 23 giugno non finisce il programma, il 23 giugno c'è la serata finale, ma il programma finisce il 1° di luglio. A questo proposito, una cosa veloce proprio di servizio, visto che la serata finale sarà, come dicevamo poco poco ora, poco innanzi, il 23 di giugno, cioè giovedì prossimo alle 21 qui nella sede di Radio 24, c'è una comunicazione di servizio ed è che di fatto noi abbiamo raggiunto il tetto massimo delle persone che possono stare nella sala collina, cioè nella sala che si trova sotto la collina disegnata e costruita con le sue mani da Renzo Piano. Allora facciamo così, visto che si è creata una lista di attesa, voi potete continuare, se vi siete liberati o se avete in mente di venire, potete continuare a mandare le mail a iosonoqui@radio24.it, nel titolo mettete 23 giugno e nel corpo invece mettete il numero di persone che vorreste venire, e stiamo stilando una lista d'attesa, perché più di tanti non si riesce a entrare lì, anzi forse già siamo in tanti per starci. Comunque la serata è il 23 giugno, il programma finisce il 1 di luglio, non il 23, e a questo proposito io vorrei appunto fare un'osservazione sugli ascoltatori di questo programma. Uno che arriva dal fatto che Viola mi ha detto che non ho capito se l'hai letto da qualche parte, l'ha letto da qualche parte. È arrivata una mail e ci sono 10 persone che partono da Carpi e hanno noleggiato un furgone per venire qui il 23 di giugno. Se siamo gongogliamo dal piacere dal sapere che c'è gente che noleggia un furgone per venire in 10. Siamo preoccupati sul dove dormiranno queste persone. Speriamo non nel furgone. Sapete che qui per dormire non c'è posto, però sicuramente avete persone che vi ospitano. La seconda invece riguarda il tema di oggi, ed è quello della prima e dell'ultima volta che avete pianto. Perché io direi che dai messaggi che sono arrivati, non solo quelli che vi ho letto, ma in generale tutti quelli che sono arrivati, l'80% delle persone dice che l'ultima volta in cui ha pianto è stata ieri o l'altro ieri, alcuni stamattina. Quindi i casi sono due, ne parlavamo con Tiziano Bonini prima. O abbiamo degli ascoltatori borderline, che basta tanto così e si mettono a piangere, però quello è anche, può anche essere un valore. Oppure semplicemente questa società si sta lentamente sommergendo verso nelle lacrime di tristezza calate dal mondo contemporaneo che avanza, o da quello antico che sta semplicemente tornando su. 800240024 349-238-6666, si parla della prima e dell'ultima volta che avete pianto. Se volete raccontarmela, io vi racconto non la mia, ma quella di un caro amico. Ciao Matteo, sono Claudio. Come va? Che fai questo fine settimana? Ma perché non vieni in montagna da me? Io avevo lasciato Don Claudio con la neve, con Giorgio, Agostino e Gaia che non c'era più. L'avevo lasciato in quella casa di montagna di un villaggio della Valsesia dove governava le anime. Frasso. Frasso è una frazione di 452 abitanti a 1000 metri di altitudine. Ha una chiesa e un cimitero. Non ci sono scuole, ma non servirebbero, perché non ci sono persone al di sotto dei 30 anni. Mentre con l'auto salivo i tornanti che portavano al paese, provavo una forma di invidia mista a stima nei confronti di quest'uomo, delle sue scelte, della sua vita così lontana dalla mia. Per via di diversi motivi, per la sua mancanza di dubbi, ad esempio, per il suo guardare sempre dritto davanti a sé. Quando sono arrivato, Claudio, come al solito, non era vestito da prete. Indossava una camicia grigia e un paio di pantaloni neri. Era in cucina a preparare la cena quando sono arrivato. Ci siamo abbracciati e siamo messi a tavola. Dopo cena, mentre lavavo i piatti, mi ha detto che l'indomani mattina saremmo andati a fare una bella passeggiata, che era uno spreco farmi venire qui dalla città per rimanere a casa. E io lì ho provato a convincerlo che no, al contrario, guarda, io non vedo l'ora di stare a casa a fare niente. Lui però è una di quelle persone che trascina, anche a costo di prenderti di peso e portarti sulle sue spalle, d'altra parte altrimenti non avrebbe fatto il prete. E così la mattina dopo, Claudio mi ha prestato degli scarponi da montagna, un maglione di lana perché il mio non andava bene, e mi ha annunciato che saremmo andati al Maccagno. Il Maccagno è l'alpeggio famoso perché ci fanno una delle tombe più buone del mondo. Prima di uscire ha recuperato un vecchio Kiway e me lo ha infilato nello zaino. La giornata era stupenda. Io gli ho detto che forse non serviva quel Kiway, che era meglio viaggiare a leggeri, no? E lui invece mi ha risposto quello che io già immaginavo, che in montagna, come in mezzo al mare, non si sa mai, il tempo cambia in fretta. E io, che questa risposta me l'aspettavo, mi sono innervosito, proprio perché me l'aspettavo, perché la conoscevo già. E sapevo che anche se era vero ed era giusto portarsi una cosa impermeabile, avrei preferito non farlo. È che certe volte mi piacerebbe pensare che le cose non cambieranno, che rimarranno come sono. Mi piacerebbe ogni tanto sapere che il presente dia qualche garanzia per il futuro. Mi piacerebbe affidarmi a quello che vedo intorno e non proteggermi sempre con la filosofia del «ma non si sa mai». Sì, qualche volta mi piacerebbe saperlo sempre, invece che non saperlo mai. sapere che se c'è il sole non pioverà, che se studi troverai lavoro, se fai il bravo a Natale riceverai dei bei regali, se ti innamori sarà sempre così, e se qualcuno ti ha fatto una promessa, quella promessa la manterrà. E invece quel kiwi lì, quello infilato nello zaino, era proprio il simbolo del non si sa mai, del fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Me lo sono infilato nello zaino e siamo partiti. Salivamo con una certa facilità. Il sentiero non era stretto ma era affrontabile. Io tenevo le mani infilate nei passamani degli spallacci e seguivo il passo di Claudio. Dopo circa mezz'oretta di cammino abbiamo smesso di parlare, finché a un certo punto Claudio ha ricominciato e mi ha detto che lui stava facendo fatica. E io volevo rispondergli che anch'io la stavo facendo, però era normale perché eravamo già sopra i 1500, invece lui no, lui è andato avanti. Mi ha detto che non voleva più stare lì. Non voleva più salire sull'altare e dire cose a persone che si aspettavano del conforto. Che forse non aveva più le parole giuste da dire, che forse non aveva proprio più niente da dire. Mi ha detto che anche il confessionale stava diventando pesantissimo, che non riusciva più a reggere il peso delle colpe di tutti, che forse non era più capace. Si è fermato, si è girato e mi ha detto: «Sai cosa faccio dopo il turno in confessionale? Torno a casa e mi faccio una canna, pensa tu». Mi ha parlato della fatica di ascoltare, di parlare, di stare di fronte ai dubbi e alla sofferenza. Ha parlato così per circa mezz'ora, poi si è zittito. Abbiamo camminato ancora un po' in silenzio, fino a che abbiamo raggiunto l'alpeggio. Le piante intorno a noi si sono aperte, siamo usciti dal bosco e è iniziato a piovere. Abbiamo tirato fuori il kiwi dallo zaino e siamo andati verso il rifugio. Society, crazy ending. Hope you're not lonely without me. E mentre mangiavamo una polenta con la toma dell'alpeggio Maccagno, ho proposto a Claudio di venire un po' a Milano. Siamo scesi sotto la pioggia, abbiamo preso la macchina e siamo partiti. In auto abbiamo parlato di stupidaggini fino a che siamo entrati in autostrada. Da lì in avanti, forse per la mancanza di curve, forse per la monotonia del rettilineo, siamo rimasti in silenzio. Io non avevo acceso la radio appena partiti e quindi mi sembrava brutto farlo a metà viaggio. Era come se accendendola svelassi la mia paura di quel silenzio. Il fatto però era che era vero. Cioè che a me quel silenzio lì, con un amico in difficoltà, pesava. E come? Pesava una tonnellata. E infatti acceleravo. Impercettibilmente, però, il mio piede spingeva sull'acceleratore nella speranza di arrivare un po' prima a casa. E poi a un certo punto ho fatto una battuta sui preti, però Claudio non ha risposto. Io allora ho girato la testa. Per la prima volta da quando eravamo saliti in auto. Ho girato la testa e Claudio mi ha spiazzato per la seconda volta. Stava piangendo. Un uomo della mia età, in crisi di identità e di fede, seduto a fianco a me sulla mia auto, stava piangendo. E io non sapevo assolutamente cosa dire. Le prime cose che mi sono venute in mente erano ovviamente quelle più stupide, cose tipo: «Ma no, Claudio, cosa c'è?» Oppure: «Dai, dai, non fare così!» O peggio: «Ma non ti preoccupare, poi passa!» Ecco, fortunatamente qualche misteriosa illuminazione mi ha bloccato e me ne sono stato zitto. Non ho detto niente. Claudio guardava dritto davanti a sé e piangeva in silenzio, senza singhiozzare, solo corrugava la fronte e si bagnava un po' il naso. Ecco, questa è una cosa che le donne non sanno. Le donne non conoscono l'imbarazzo di un uomo che piange di fronte a un altro uomo. Hanno visto magari qualcuno piangere per loro o per una perdita o magari per una vittoria della propria squadra. Ma non sanno cosa significhi percepire sulla propria pelle la libertà che un uomo si concede di piangere di fronte a un altro uomo. Io ho appoggiato una mano su un braccio di Claudio, lui mi ha dato due pacche sul dorso e ha sorriso lievemente. E poi un attimo prima che io dicessi una banalità, lui ha detto: «Ma dai, fermiamoci all'autogrill». Claudio Milano la conosce perché ci ha studiato. Solo che la cosa che si era scordato è che in questa città può fare un gran caldo. Lui era arrivato vestito come di solito si veste in montagna, pantaloni di velluto, camicia grigia e maglione blu. Io gli ho prestato un paio di bermuda rossi, una polo e delle scarpe da ginnastica, roba che quando è uscito dal bagno sembrava Paul Caillard. Ieri mattina poi è uscito di casa dicendo che voleva andare a vedere il cenacolo di Leonardo da Vinci. Io gli ho detto che c'è una lista d'attesa di 3 mesi e lui mi ha risposto di non preoccuparmi, che sapeva come fare. Poi a pranzo è tornato ed era entusiasta, diceva che ogni volta che lo vedeva gli sembrava sempre fosse la prima. Ha mangiato il suo pasto come fosse l'ultima cena e poi mi ha detto che nel pomeriggio avrebbe incontrato una persona, che era da tanto che non la vedeva. Era stato suo insegnante di teologia e ci teneva ad incontrarlo. Io sono venuto in radio e l'ho lasciato alle prese con un residuo di pizza che avevo comprato dal panettiere sotto casa. E quando sono tornato Claudio non c'era. Io ho fatto la cosa che faccio ultimamente. Mi sono sdraiato sul divano in salotto e mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato Claudio era seduto al computer. Ho alzato la testa e lui stava guardando delle foto della Riviera Adriatica. E per un attimo io ho temuto il peggio. Ho pensato che la sua crisi lo avesse toccato al punto da volergli far mollare tutto e partire per una vacanza da teenager sulla Riviera Romagnola. Lui si è accorto che mi ero svegliato e mi ha raccontato del suo incontro con Don Chiasso, il suo ex professore, il suo confessore. Mi ha detto che non si era risolto tutto, ma che la chiacchierata con lui era stata utile, che aveva capito che l'isolamento non era la cosa giusta per lui in questo momento, che la soluzione era stare in mezzo alla gente, che solo così poteva misurare la sua capacità di condivisione, di ascolto, di comprensione. Don Chiasso gli aveva detto che nella diocesi di Riccione era venuto a mancare un parroco e c'era bisogno di sostituirlo. Io gli ho detto che non ero mai stato a Riccione, che non doveva essere male, no? C'era pure l'acqua fan, volendo si poteva fare un tuffo. Che doveva essere un po' una battuta, però lui non ha riso, anche perché non c'era niente da ridere in effetti. Claudio non era felice, però sembrava più sollevato e questo ha reso felice me. Si è messo ai fornelli dicendo che la cena l'avrebbe preparata lui e che l'indomani sarebbe tornato a casa per preparare le valigie. Ora volevo leggervi un passo del Vangelo. Dov'è? Non lo trovo. No, non importa, perché ora vi devo salutare. Parto. Vado molto lontano, in un posto dove c'è un vento che fa diventare pazzi e dove hanno bisogno di un amico. Qui non ci posso più stare e per voi mi sono reso conto che non posso fare nulla. Ho provato, ma non ce l'ho fatta. Spero sarete capaci di perdonarmi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Non facciamo vaccate con l'overbooking, che il 23 voglio stare comodo. A proposito, si viene già mangiati, ma ci manca solo che vi devi andare da mangiare. Se ci sono le persone che devono venire, dovremmo chiamare l'esercito. 800240024, prima volta che mi ricordo a quando pianto all'asilo. Mia mamma faceva finta di non riconoscermi perché avevo una maschera con una faccia di un altro. E tu pensa, sta povera donna che anche per farlo contento, ma dov'è il mio bambino? Ma dov'è? Quello si mette a piangere. Invece andiamo in provincia di Novara, andiamo da Angelo, perché Angelo si ricorda benissimo l'ultima volta in cui ha pianto. Pronto Angelo? Caspita se me la ricordo, Teo. Ciao, come stai? Molto bene, tu? Bene, bene, grazie. È un piacere conoscerti. Anche per me. Senti, tu sei di Trecate, Angelo. Esatto. Che è in provincia di Novara, vicino a Romentino, per chi non lo sapesse, sì. Ma anche chi se ne frega. Dimmi perché, dimmi perché hai pianto domenica sera. Guarda, è stato prima della partita Padova-Novara all'inno nazionale, quando inquadravano tutti i ragazzi. Per chi non lo sapesse, il Novara dopo 55 anni è tornato in Serie A, è una cosa che praticamente ha portato gente che non sapeva nemmeno che il Novara Calcio esistesse in Piazza Martire Novara. Fammi capire, perché suonavano l'inno nazionale italiano? Italiano, ebbene sì. Poco prima dell'inizio della partita. Ma invece, per scusa, celebrare, non so, tipo il passaggio in Serie A, direi. Sì, sì, in Serie A, scusa. No. Ma scusami, tu sei di lacrima facile, Angelo? Ma sostanzialmente sì, ogni tanto mi parte l'emozione, non riesco a trattenerla. Soprattutto non ti riesco a spiegare perché, ma mi capita con l'inno nazionale, non arrivo a capirlo. Senti, cosa fai nella vita, Angelo? Vendo case, agente immobiliare. Hai la cravatta? No, oggi no, la polo, fa un caldo bestiale. Però tu ce l'hai il cravattone, quello largo. Eh beh, per forza, col nodo grosso e la scarpa punta. Angelo, ti ringrazio molto, ti auguro buona giornata. Grazie, a presto. Ciao, alla prossima. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. E finalmente nella foto di oggi so esattamente dove siamo. Siamo a Milano, siamo lungo il naviglio della Martesana, che è uno di quei posti che appartengono alla categoria Milano è talmente bella che non sembra Milano. C'è un ponticello di pietra, ci sono delle piante che spuntano dal bordo del naviglio, che sono esattamente sull'acqua. E dietro c'è una villa molto bella, è una villa... direi stile Liberty perché suona bene, Villa Liberty, ma non è Liberty, quindi credo che non abbia senso quello che sto per dire. È colorata di rosa, è una villa abbastanza famosa a Milano, appartiene ad un critico d'arte e ci girano anche delle pubblicità. Rita Di Gioia, 38 anni, di Luisago. Ogni giorno durante la pausa pranzo passeggio sul canale della Martesana. Mi immergo in un angolo fatto di verde e acqua, facendo buffi incontri. Il palestrato che fa jogging, lo scoppiato che non ce la fa, cani che portano a spasso i padroni, improbabili pescatori in cerca di bottino, ciclisti spensierati, coppiette imboscate, perditempo annoiati. Io sono qui. Un mondo! Rita, un mondo nella tua pausa pranzo. Sempre meglio che uno dei panini. Della mensa, 800240024 349-238-6666. Luigi mi ha scritto questo messaggio: io ho iniziato quasi a piangere da un paio di anni. Mi spiego. Ho il canale lacrimale troppo grande, per cui le lacrime non si vedono e vanno direttamente nel naso. Quindi non piango, ma si fanno solo gli occhi rossi. Mia mamma, quando ero piccolo, si insospettì perché quando frignavo non cacciavo una lacrima. Poi con gli anni il canale si restringe, per cui da un paio di anni ho gli occhi sempre più umidi e quando piango compaiono lacrimoni negli occhi. Ma la canonica lacrima che scende e ti riga il viso non l'ho mai provata. Ci vorrà ancora qualche anno. Per cui una prima vera volta che piango ancora non posso raccontartela. 349-238-6666, dei messaggi che sono arrivati delle prime volte. La prima volta quando a 6 anni un altro bambino ha chiamato papà mio padre. L'ultima volta il 28 maggio alla recita di mia figlia. E invece Riccardo da Padova mi dice che anche lui, come l'ascoltatore di prima, ha pianto dopo la partita Novara-Padova, ma per il motivo opposto da quello suo. Francesco da Torino: la prima volta che mi ricordi è stata dalla mia pediatra. Ero piccolo, avevo 3 anni. Scoppiai in lacrime alla vista della siringa del vaccino dell'antitetanica. L'ultima 4 mesi fa, quando ho visto la mia bambina staccarsi dalla mamma e muovere i suoi primi passi sulle gambe. La prima volta che ho pianto non la ricordo, l'ultima è stata stamattina. L'estetista mi stava facendo le sopracciglia. Matteo da Salerno. Matteo, se è vero, allora se è vero va bene, se non è vero sei un cretino. Andiamo da Giorgio da Padova. Pronto Giorgio? Ciao Matteo, un piacere sentirti. Anche per me, come stai? Bene, grazie, voi? Ma se, mi dai del voi o tutta la redazione? Voi, tutta la redazione. No, siamo tutti benone. Dimmi quando è che hai pianto, la prima e l'ultima volta più o meno? Guarda, la prima e l'ultima volta non saprei, però mi ricordo benissimo 2 volte. Le prime di amarezza, quando ogni volta che scoprivamo che un tentativo di fecondazione assistita era andato male. Sì. E invece l'altra, quella che era forse più bella, di gioia, quando finalmente siamo riusciti ad adottare 2 bambini. E sono già con voi adesso i bambini? Sì, sì, ormai sono 5 anni, 2 bambine le abbiamo prese quando avevano 8 e 12 anni, adesso hanno qualche annetto in più, 5 in più. E di dove sono, Giorgio? Della Lituania. E siete andati là? È stata lunga la trafila oppure? Ma è stato lungo aspettare di avere l'abbinamento, come si dice in gergo tecnico. Poi una volta avuto, in un paio di mesi siamo riusciti a portarle a casa. Ma siete andati in Lituania, avete dovuto fare... Abbiamo fatto 3 viaggi per un totale a distanza, a varie distanze, perché bisogna compiere una certa... Bisogna andare prima a conoscerle se sta una settimana, poi bisogna aspettare un paio di mesi per avere l'udienza di adozione e poi bisogna aspettare ancora 40 giorni perché la sentenza passa in giudicato. Ho capito. Ogni tappa è una settimana, quindi 10 giorni, poi dopo... Come stanno adesso le bambine? Ma mi auguro che stiano bene. Me lo auguro anch'io. Giorgio, ti ringrazio molto. Grazie mille. Ciao, voi, buona grazie giornata. Voi, ciao. Ciao. Andiamo dalla Giovanna, dalla provincia di Lodi, perché spesso si piange per i figli, questo si evince dai messaggi che arrivano, però il racconto di Giovanna è abbastanza tragicomico. Pronto Giovanna? Sì, ciao Matteo, ciao. Piacere parlare con te. Anche per me. Senti, tu settimana scorsa hai tolto il ciuccio al bambino di 2 anni. Però sì. non era il momento. Cosa vuol dire che non era il momento? Non era il momento, perché sai che il ciuccio è una cosa importante per i bambini, no? E si staccano quando un po' decidi tu e quando un po' decidono loro. Ma per staccare vuol dire proprio, cioè, che glielo tiri via dalla bocca? No, vuol dire abbandonare, vuol dire lasciarlo, perché sai, come ad esempio quando si inizia la scuola materna, il ciuccio è una cosa che di solito si stacca, cioè si stacca, lo si toglie. No, l'ho capito, bambino. Giovanna, però la scena è proprio così crudele, nel senso che tu gli prendi il ciuccio dalla bocca e glielo strappi? Oppure semplicemente lui lo vuole e tu dici no? No. No, assolutamente non è così, c'è tutto dietro un lavoro di, ad esempio, il ciuccio lo attacchiamo a un palloncino, lo mandiamo via, i bambini che ne hanno bisogno, c'è tutta un'altra fila per il ciuccio, che se vuoi c'è una documentazione di libri per l'infanzia sul ciuccio, perché è un momento comunque molto delicato. Lo immagino, insomma, non era pronto sto bambino? Non era pronto, no? La cosa ridicola che io e mio marito, no dai, teniamo fermo, no, questa nostra decisione, perché oramai è il momento, il bambino è diventato grande, ha tolto il pannolino, per cui, e invece sto bambino soffriva tantissimo, no? E la scena tragicomica è stata proprio in un momento in cui lui, noi cercavamo di convincerlo, dai Gabriele sei diventato grande oramai, e lui ha iniziato a piangere, mio marito lo guardava e si è messo a piangere, e a me è venuta la stessa cosa, cioè la lacrima proprio di commozione della serie. Giovanna, quando succedeva tutto ciò? La settimana scorsa. Vabbè. È il ciuccio che fine ha fatto? È volato in cielo? È ritornato. Bene. Perché eravamo disperati. Beh, lo immagino. Guarda, io ho un amico che fa il pediatra, che in realtà fa il cantante, però fa anche il pediatra. È il cantante di un gruppo che si chiama Ted Dubois, magari lo conosci. Lui sembra un personaggio assurdo, ma lui è un pediatra, dicono anche molto, molto bravo. E una volta gli ho chiesto, ma Andrea, scusami, ma è la storia che il ciuccio fa male in bocca? E lui mi ha risposto, guarda, piuttosto che una madre stressata, io faccio tenere il ciuccio in bocca ai bambini fino ai 6 anni. Giovanna, sì. Quindi diciamo, puoi tutelarti ancora per qualche anno. Va bene, grazie. Secondo Andrea. Sono sicuramente confortato da questo pensiero. Va bene. Ciao Giovanna, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Chiara, nel silenzio della notte sento un crack, mi sveglio e trovo il mio bambolotto preferito con il braccio rotto, non ti dico quanto pianto, più o meno come sabato scorso guardando l'ennesima volta Big Fish. Io credo che il raggio d'azione dell'ultimo pianto per tutti gli ascoltatori di Io Sono Qui sia nell'arco più o meno di una settimana. Ho iniziato ad andare in montagna quando avevo 5 anni. Ricordo ancora la prima vetta. Mio padre si era dovuto caricare oltre al suo anche il mio piccolo zaino, anzi il tascapane, come si diceva allora, rigorosamente acquistato al mercato degli americani di Livorno, riempito di borraccia, maglia e un paio di panini. E lui era lì, tutto sudato, accanto a me, e mi indicava le altre cime che sbucavano dal mare di nubi che ci impediva di vedere la pianura. Forse è nata quel giorno la passione per la montagna. Una passione che mi accompagna da più di 40 anni, anche se ci sono stati periodi di forzato distacco, come negli anni dell'università, quando mi ritrovavo a studiare tutta la domenica, o quando all'inizio della professione, passando da un incarico all'altro o da una città all'altra, il tempo libero lo spendevo preparandomi ai concorsi. Le montagne comunque erano sempre lì, anche solo una foto attaccata alla parete, una rivista da leggere. È arrivato finalmente il lavoro e poi gli orizzonti si sono allargati. Non solo più le Alpi, ma Ande, Himalaya, deserti. I viaggi solo sognati, piano piano, sono in parte diventati realtà. C'è un messaggio che lascio invece per Barisoni, che è... io vi dico quando la gente piangerà, non quando ha pianto. Le banche stanno offrendo dei bond di Mediobanca con rese a 9 mesi dal 22%. Puzzano tanto di Parmalat o di bond argentini. Piangeranno in tanti. Pietro, ci sei tu dopo con Barisoni. E poi paga sempre Pantalone. Glielo giri direttamente a lui. Sì. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Stefano D'Andrea, a Viola Bottoni e Tiziano Bonini. Lello mi scrive: la prima volta che ho pianto penso sia stato guardando E.T., l'ultima ieri sera al telefono. E si conferma la teoria per cui gli ascoltatori di Io Sono Qui sono dei frignoni. Io Sono Qui, @radio24.it, l'appuntamento è... L'appuntamento è per domani alle 14, invece per chi viene al live è domani alle 16, cosa dico alle 14? Alle 4, volevo dire. E per chi viene invece al live è giovedì 23 giugno alle 21. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi? Dove siete?